To our love belongs the earth and sky, so wonderful. Oh, the oceans wide, the mountains high, the animals. Looking at the sky, so many million miles over space and time, there is only one God. From a tree top. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعطي فتالي موس سألة ستسونا أميكيام موسى كرانتوني أصلا دا أستراليا أعطونا بدأت دي ميو كونيومي ميو بارد إيطاليان دا كالابريا أمي أمام دا إيرلانديسة E perché di questo io sono nato in Australia cattolico, come la maggior parte degli italiani e irlandesi. E tutta la mia vita come cristiano, cattolico, io avevo pensato, io ho la verità. La mia religione è la vera religione di Dio. Ero contento. Sono andato a scuola cattolica, ho studiato un po' della Bibbia, abbiamo studiato la religione, ogni domenica siamo andati in chiesa. Ero contento. Avevo sempre pensato, questa è la religione, è la vera religione, per me la vera religione di Dio. Ma dopo un po' di tempo, specialmente quando sono andato alla scuola superiore, avevo studiato un po' più, per esempio, della politica. La maggior parte dei miei maestri erano atei, comunisti, socialisti, e sempre avevo litigato con loro, perché loro non credono in Dio. E mi hanno chiesto, oh Roberto, perché tu non credi che l'aborzione, per esempio, è una cosa buona? Allora, perché io sono cattolico. E loro hanno detto, ma anche tu non sai tanto della tua religione, per esempio, questo. E ho detto, sì, io non so tanto di religione. E perché di questo avevo deciso un giorno di andare a casa, prendere la Bibbia e leggerla. E poi ho cominciato, prima pagina, ho letto un po' più, e c'erano qualche cosa che non andavano bene. Per esempio, avevo letto nella Bibbia che c'era scritto che un credente in Dio non può essere male, non può mangiare maiale. Io sto pensando, scusa, ma cos'è questo? Noi sempre mangiamo maiale. Il prete della chiesa mangia maiale, il papa del Vaticano mangia maiale, però c'è scritto nella Bibbia che noi non possiamo mangiare maiale. Ma cos'è questo? Poi ci avevo letto, c'è scritto nella Bibbia che un credente in Dio deve crescere la sua barba. Un'altra cosa, sto pensando, non ci sono cattolici, ma non ci sono tanti che crescono la barba e la donna deve coprire la testa. Sto pensando, questo mi sembra strano. Sì, avevo visto le statue che fanno di Gesù con la barba, di Maria con la testa coperta. Però in questi giorni chi fa queste cose? Tutti mangiano maiale, non c'è nessuno di crescere la barba perché c'è scritto nella Bibbia. E vorrei sapere perché. Perché Dio ha detto una cosa e i cattolici fanno una cosa altra. Volevo sapere perché. Poi avevo parlato con un amico e questo amico non era cattolico, però era, come si chiama, battista, Baptist in inglese. Pure cristiano. Lui mi ha detto, allora ti spiego tutto, ti spiego perché non è permesso per noi di mangiare maiale, non dobbiamo crescere la barba, tutte queste cose. Ha detto, allora, ascolta, noi come cristiani crediamo che Gesù ha iniziato, io dico ha iniziato, lui non ha detto così, Gesù ha iniziato, era Dio. Ha detto, scusa? Ha detto, Gesù era Dio. Ma questo è una cosa strana. Ho detto sì, Gesù è Dio e noi crediamo che Gesù è morto per noi. Avevo pensato un po', ho detto scusa, un'altra volta spiegami questo. Ho detto ok, Gesù è Dio e Gesù è morto per noi, per i nostri peccati. Ho detto allora, Gesù è Dio, sì, e Gesù è morto, sì. Questo vuol dire che Dio è morto. Sì, cosa è questo? Come potete pensare che Dio è morto? E tu sì, sì, Dio è morto per noi. Sto pensando, scusa davvero, ma come puoi dire questo? Quando leggiamo nella Bibbia, anche oggi nella Bibbia c'è scritto nel libro dei Numeri, uno dei libri della Bibbia, c'è scritto Dio non è un uomo. Chiaro? Dio non è un uomo. Però lui dice no, Gesù era Dio. Mai nella Bibbia Gesù ha detto io sono Dio. Anche i cristiani, i cattolici, quando credono, ci hanno insegnato, la Chiesa ci ha insegnato, quando prendiamo, diciamo Santa Maria, madre di Dio. Madre di Dio, io sto pensando, ma Dio non ha una madre. Dove c'è questo nella Bibbia? Non c'è. Non si dice che Dio ha una madre. No, si dice Dio non è un uomo. Si dice Dio è uno, unico. C'è solo uno Dio. Non c'è mai scritto che Gesù ha detto io sono Dio, o adorami, o pregate a me. Non c'è scritto questa parola Trinità. Che tutti i cattolici dicono Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo. Non c'è scritto mai, non una volta nella Bibbia, però c'è scritto Dio è uno. E allora, io avevo visto che c'era una differenza tra cosa ha detto Dio nella Bibbia e cosa fa la Chiesa e cosa fanno i cattolici. E io avevo deciso, allora, se Dio dice questo e il Papa, il prete della Chiesa dice un'altra cosa, io devo seguire Dio, non la Chiesa. Poi avevo senso di mangiare un maiale, avevo cominciato di crescere la mia barba, tante cose, avevo deciso di cambiare questo. Perché? Era la parola di Dio, o cosa ho fedeltà, era la parola di Dio. E dopo un po' di tempo sempre parlavo con i miei amici, e per esempio avevo un amico dall'Etiopia, e lui era anche cristiano, ma come me ha detto, ma Dio è uno, unico, ma non è un uomo, Gesù ha risalato il profeta di Dio, non più di questo. E ogni giorno abbiamo parlato sempre di Gesù, della Bibbia, di Dio, e avevo un amico da Bosnia, bosniaco, e purtroppo, come sappiamo nella storia, che Bosnia era governata dai comunisti, gli altri, e perché di questo l'istruzione islamica era proibito. E purtroppo ci sono tanti musulmani in Bosnia, anche se amano la religione, non sanno tanto della religione. Anche questo fratello era musulmano nel nome, solo nel nome, non mangiava mai altro, solo questo. E lui un giorno mi ha sentito parlando con un mio amico di Gesù, la Bibbia, di tutto questo, e poi ha detto basta con Gesù, basta, sempre stai parlando di Gesù, non voglio sentire il nome di Gesù. Io sono musulmano, orgoglioso, e io credo in Muhammad, non in Gesù. Io credo in Allah, non in Dio. E ha detto, io odio Gesù. Subhanallah, guarda questa ignoranza. Ha detto, io odio Gesù. E ha detto, Gesù è questo, è questo. Io sto pensando, anche se non credi in mia religione, non è giusto di parlare così. E perché di cosa ha detto? Io avevo deciso, allora, non sarebbe basta di darlo un pugno, no, voglio fare un po' più di questo. Io voglio studiare un po' di sua religione, l'Islam, per sapere come è una religione falsa, e posso attaccare l'Islam. Allora sono andato a casa, ho iniziato di studiare un po' di l'Islam, e la prima cosa che avevo detto è che i musulmani credono in Gesù. Sto pensando, cos'è questo? Ho già sentito che lui dice che i musulmani odiano Gesù, ma questo dice che i musulmani credono in Gesù e amano Gesù. Allora, forse questo non è corretto. Vedo un altro libro. Sì, anche questo dice che i musulmani credono in Gesù. È davvero è un gran shock per me. La maggior parte dei cristiani non sanno che noi musulmani amiamo Gesù, crediamo in Gesù, non sanno questo. La maggior parte non sanno questo, perché di questo è un gran shock per me. E poi avevo letto un po' più delle strade, i musulmani credono in Musa alayhissalam, Ibrahim alayhissalam, tutti i profeti di Dio, e soprattutto dicono che, e con questo ero contento. Sto pensando, questo è un po' andato alla casa di questo fratello bosniaco, ho detto: scusa, ma ho detto che voi musulmani credete in Gesù? Ho detto: è vero, non so, se dice così, forse è così. E poi ho detto: voglio studiare un po' più di Islam, non perché voglio essere musulmano, no, ma io sono cristiano, io sono contento di essere un cristiano, questa è la mia religione, Islam, no, questo solo voglio studiare un po' più, voglio sapere un po' più. E poi avevo letto più, e ogni cosa che avevo letto era giusta, ero contento con questo. Per esempio avevo letto, avevo visto che i musulmani erano più vicino alla Bibbia, alla parola della Bibbia, che i cristiani. Per esempio avevo visto musulmani che pregano nella moschea, che fanno sujud, prostrazione. E quando leggiamo nella Bibbia, ogni volta, subhanallah, ogni volta che c'è un profeta nella Bibbia, chi prega ha fatto sujud, ha fatto preghiera, anche Gesù, nella Bibbia si dice, è andato al giardino di Getsemani, non so come si chiama in italiano, e ha fatto sujud, prostrazione quando pregava. Ma dove c'è uno cristiano nel mondo che prega così? No, fanno così, e fanno, e... della Bibbia, ma come i musulmani pregano, restano le barre, le donne, le teste coperte, non mangiano mai altro, non bevono alcol. Sto pensando, allora mi sembra che i musulmani sono più vicini alla parola di Dio, perché di questo ero contento. Poi avevo parlato con tanti amici musulmani, avevo studiato un po' più dell'Islam, e come vedete ero contento con tutto, fino al punto che avevo studiato anche un po' più del cristianesimo e avevo detto: io so la storia adesso della Chiesa, come hanno cambiato la religione, e poi ho detto: non sono un cristiano, ma non sono un musulmano, sono immerso. E subhanallah, perché non ero già convinto dell'Islam. Per esempio, se io avevo letto il Corano dice: devi pregare, devi dare salata, carità, devi fare il digiuno, come ha fatto Gesù all'Islam, devi fare tutte queste cose, cose buone. Ma volevo sapere come io posso sapere senza dubbio che questo libro è il libro di Dio. Perché nel passato avevo studiato la Bibbia per quanti anni? 16 anni. E solo dopo 16 anni avevo trovato questi sbagli. Allora, forse è lo stesso con il Corano. Voglio studiare, tutto il Corano, voglio sapere tutto dell'Islam prima di fare qualcosa. E soltanto era vicino all'inizio di Ramadan. E ho parlato con i miei amici musulmani e ho chiesto: ma voi digiunate nel mese di Ramadan? Hanno detto: sì, dobbiamo digiunare. Però la maggior parte musulmani nel nome hanno detto: no, non digiuniamo, fa caldo, difficile, c'è scuola, allora non digiuniamo. E io avevo deciso: allora, io credo in Dio, io so che Gesù ha insegnato che Mosè ha digiunato. Allora, perché io non provo a digiunare? E poi ho detto ai miei amici musulmani che non volevano digiunare, ho detto: allora, io, il non musulmano, io, diciamo, no, digiunerò tutto Ramadan. Allora, tutti voi dovete digiunare. E alhamdulillah, nel mese di Ramadan sono andato a casa di un amico musulmano, anche da Etiopia, però musulmano, e abbiamo mangiato insieme, fatto iftar, ho visto una famiglia che parlano di Dio, che parlano del Coran, che pregano insieme. Era una cosa che non avevo mai vista. L'amore dell'Islam, l'amore della religione, l'amore di Dio, ero contento. E poi nel mese di Ramadan avevano tanti libri sull'Islam. Io avevo letto tutti i libri e c'era uno libro che parlava dei miracoli del Coran. Perché a quel tempo, come vi ho detto, io ho detto: sì, tutto ciò che c'è nel Corano, sono contento con questo, ma voglio sapere senza dubbio che questa è la parola di Dio. Perché ogni libro può dire queste cose, di pregare, di essere buoni ai genitori. Voglio sapere come posso essere sicuro che questa è la parola di Dio. E quando avevo studiato i miracoli del Corano, soltanto, per esempio, come Allah soltanto tra la spiega nel Corano, come sviluppa il bambino nella pancia della mamma. Esattamente, i dottori non avevano saputo questo 100 anni fa, però il Corano dice esattamente come e tanti altri miracoli del Corano. Per esempio il ferro, ho letto che il ferro viene dai cieli, il ferro non è dalla terra, è venuto dai cieli. Si dice nel Corano, non so esattamente come si dice, però Allah ha fatto come piove il ferro e poi è venuto dalla terra. E io stavo pensando, ma questo è giusto, come ferro? Ferro viene dai cieli, non dalla terra? Però ho trovato anche nell'enciclopedia, si dice sì, è vero, ferro non è dalla terra. Chi sapeva questo? 1400 anni fa, chi sapeva questo? Nessuno. Nessuno, 100 anni fa, questo era non saputo, però c'è scritto nel Corano. E questo mi ha convinto che questo libro non è di un uomo. Questo libro è il libro di Allah Subhanahu wa Ta'ala. E così la religione di Islam è la religione di Dio. E poi quando avevo chiuso questo libro ho detto, allora, sono musulmano, alhamdulillah. Io credo in lei, in Allah, Muhammad Rasulullah, allora io sono musulmano, alhamdulillah. A quel punto avevo 17 anni, questo era 10 anni fa. E alhamdulillah, dopo quel punto nella mia vita, subhanallah, volevo parlare con tutti dell'Islam, con mia famiglia, miei amici, tutti alla scuola, i maestri, e subhanallah, dopo 2 settimane, mio amico di Etiopia, cristiano, anche lui è convertito all'Islam, alhamdulillah. È un cugino, alhamdulillah, è convertito all'Islam. In Australia, di quelli che ho parlato con loro, forse 30 persone, alhamdulillah, sono venuti all'Islam. Guarda, è facile. È una cosa facile, perché questo io, non è che io sono quello che devo convincere. No, abbiamo già la verità. Dobbiamo solo informare e poi invitare. Guarda, ho fatto questa distinzione di informare e invitare. Quando parliamo di dawa nella lingua araba, cosa vuol dire dawa? Informare o invitare? Invitare. Vi racconto una storia, forse 2 settimane fa, sono stato alla moschea di Bergamo. E c'era un non musulmano italiano entrato nella moschea e lui ha detto, voglio sapere un po' più dell'Islam, ho già studiato un po' dell'Islam e voglio sapere un po' più. Allora i fratelli di Subhanallah hanno preso libri, forse 10, 20, 30 libri per lui, lui comparendo così con tutti questi libri, e hanno detto a loro, vai a casa a leggere tutti questi libri, se sei contento puoi venire alla moschea un'altra volta. Ho detto, scusa fratelli, posso parlare con questo italiano per 2 minuti? Hanno detto sì, certo. Allora ho detto, buongiorno, mi chiamo Musa, sono dall'Australia. Allora tu vuoi sapere un po' più dell'Islam? Sì. Allora hai già detto un po' sull'Islam? Sì. Allora voglio sapere, ma tu credi che c'è solo un Dio? Sì. E tu credi che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il profeta di Dio? Sì. Allora sei musulmano? Davvero? Sì, sei musulmano, alhamdulillah. Allora sei pronto a dire la shahada di diventare musulmano? Sì, certo. Alhamdulillah, facile, guarda. Cioè, informare, dare libri, dire qualcosa dell'Islam e poi invitare. Questa è una cosa facile, ed l'ho visto soltanto in Australia. Uno chef mi ha detto questo. Perché non ti chiedi quando c'è qualcuno che sta studiando l'Islam? Perché non ti diventi musulmano? Allora, voglio provare. Quel giorno sono andato al centro islamico a Melbourne, mia città in Australia, e c'erano 2 che volevano sapere più dell'Islam. Il primo ha detto, perché non ti diventi musulmano? Ha detto, allora sei bene. Subhanallah, facile. Poi l'altro, perché non ti diventi musulmano? Ha detto, perché tu, mia famiglia, perché io sono serbo, sai, perché c'è la guerra, tutte queste cose. Abbiamo parlato mezz'ora e poi è diventato musulmano. Allora, vediamo qui. Il profeta di Allah sallallahu alaihi wasallam ci ha detto, se uno è stato guidato perché di te è meglio del mondo e tutto che c'è nel mondo. Subhanallah, non parliamo questo? Se uno è stato guidato perché adesso, quello che mi ha guidato adesso, ogni parola che dico, lui ha una ricompensa per questo. non pensa per questo. Lui non pensa per questo. Subhanallah, non vogliamo questo? Non vogliamo che almeno uno è stato guidato dall'esempio che è il nostro padre? Se vogliamo guardare il posto del paradiso, allora dobbiamo lavorare almeno un po'. Davvero non è facile, non è difficile. Non è difficile. Perché parlare con qualcuno dell'Islam, ti invitarlo all'Islam e inshallah, se lui diventa musulmano, inshallah forse, Allahu a'lam, questo sarà la ragione perché entriamo in paradiso. Allora, con questo voglio parlare un po' di come essere un musulmano qui in Italia, perché credo che la maggior parte di noi siamo venuti qui perché cosa? Per l'Islam e Dawa? No, per il lavoro, soldi, chissà perché siamo venuti qui, e non importa, davvero non importa perché siamo venuti qui. La cosa più importante è adesso siamo qui in Italia e mentre siamo qui dobbiamo lavorare per l'Islam. Come ho detto, non importa se sei venuto qui per lavoro o qualcosa, una donna, non importa. Mentre siamo qui, dobbiamo lavorare per l'Islam. Prima di tutto, è una cosa importante di sapere un po' della storia di questo paese. In Italia c'è una bella storia di Islam. Sempre perché io ho studiato la storia, mi piace tanto la storia. Sempre voglio fare esempi, perché noi dobbiamo sapere la nostra storia, perché è una cosa importante. Tutti noi beviamo caffè, sì? Caffè. E quando beviamo caffè, di che cosa pensiamo? Per esempio, quando tu bevi Coca-Cola, pensi di America, tutto questo, capitalismo. Quando bevi caffè, di che cosa pensi? Chissà. In Australia, quando bevono caffè, pensano di Italia, Francia, Europa. Per noi, forse non pensiamo di niente, solo caffè. Non significa niente. Questa parola caffè viene dalla lingua araba. In arabo cosa diciamo? Qahwa. Allora, qahwa viene dalla parola qahwatul bun. Bun è il caffè. E il qahwa è l'acqua che viene di questo che beviamo. Allora, qahwa viene dalla parola qahia. Qahia vuol dire di perdere la voglia di mangiare. Perché quando bevi tanto caffè non puoi mangiare di più. Allora, perché di questo si chiama qahwa. Poi quando qahwa, il caffè, è venuto, è andato a Turchia, lo stato ottomano, hanno cambiato il nome un po', perché i turchi non possono dire wow. Per esempio, quando i turchi provano di dire wallahi, dicono wallahi, così. E anche con qahwa non potevano dire qahwa, è diventato kahve. Anche oggi in Turchia si chiama kahve. E poi quando lo Stato ottomano avevano attaccato Austria e Polonia, e questo è l'ultimo esempio della nostra storia del jihad offensivo nella storia, quando avevano attaccato Vienna. E allora i musulmani, lo Stato ottomano, sono stati sconfitti in questa battaglia. E poi, come sappiamo, quando tu scappi dalla battaglia, lasci la Romania, per esempio le armi, i soldi, e anche i turchi avevano tanto del caffè, perché sappiamo anche oggi i turchi hanno il caffè. E il punto su Anna del Stato ottomano c'è un muffi, il muffi dello Stato, e lui ha detto, come sappiamo, il marito della famiglia deve pagare per tutto, per la moglie, i vestiti, il cibo, la casa, e anche ha detto anche il caffè. Se lui non può pagare per il caffè della moglie per il giorno, questo è basta per un salario, un divorzio su Anna. Guarda quanto amano il caffè, anche nella guerra avevano loro il caffè. E poi quando sono stati sconfitti, erano scappati dalla battaglia. E poi gli austriani e quelli di Bologna avevano scoperto questo caffè, il caffè. E dalla parola caffè è cambiato perché, come sappiamo, anche in italiano non c'è la lettera A. E poi è andato via, è diventato caffè. Oggi in Polonia si chiama caffè. E poi quando è andato in Francia, per esempio, in Europa centrale, è diventato da caffè. Allora, questa è da dove viene la parola caffè. quelli di Austria, gli altri paesi, avevano aperto negozi di caffè, avevano fatto con un stile ottomano, turco, musulmano. Vediamo che anche c'è il primo negozio di caffè in Europa, in credo che in Austria o Polonia, non ricordo. Quando vai lì ci sono statue di turchi ottomani, il turban, le spade così, e da prima anche oggi tutti i camerieri erano vestiti come turchi, come ottomani, come musulmani. Praticamente questo, quando avevano bevuto il caffè, era una cosa musulmana, islamica. E perché di questo la Chiesa Cattolica, avevano paura del caffè. Dicevano, se tutti i cristiani bevono questo caffè, chissà, forse il cuore andrà un po' vicino all'Islam e ai musulmani. Allora dobbiamo fare qualcosa. E il Papa aveva deciso di dare una fatwa, di dire che caffè e haram è impermesso, vietato per i cristiani. Guarda, soltanto chi di noi sappiamo questo? Chi ha sentito di questo? Per tanto tempo i cristiani non devono bere il caffè. Perché di questo? Perché è amaro per il caffè? Cosa hanno fatto? Sono andato solo terra, caffè nascoste, per bere il caffè. Era una crisi. Se tu bevi il caffè sei un criminale. Era così, così, segreto, bere il caffè. E dopo un po' di tempo c'era un nuovo papa, lui aveva deciso allora, noi sappiamo che tutti stanno bevendo caffè. È impossibile di fermare questa cosa. E allora cosa ha fatto? Ha preso un sacco di caffè nella chiesa e ha fatto il battesimo con l'acqua e il caffè. Ha fatto il battesimo e ha detto, allora oggi il caffè è diventato cristiano. Oggi è halal. Subhanallah. Una cosa strana da vedere, ma questa è la storia. Allora chi di noi? Quando pensiamo del caffè, pensiamo questa è una bevanda musulmana. Non sappiamo questa storia. E quando sappiamo questa storia, si cambia quando pensiamo del caffè. Ogni volta che c'è la bevi il caffè, ci sarà un po' di orrore, perché questa è una bevanda musulmana. E allora, questo è un esempio della storia che io voglio darvi, mostrare un po', perché dobbiamo sapere un po' della nostra storia. Allora, la storia dell'Islam qui in Italia ha cominciato al tempo dei Sahaba. Osman, il califa dei muslimini, il califa dei musulmani, ha mandato un esercito di musulmani per attaccare Sicilia. Sono andati a Pantelleria. Pantelleria è un'isola di Sicilia. Da prima non si chiamava così, però i musulmani quando sono andati lì hanno dato il nome in arabo Bint Ariyah. Bint Ariyah, perché c'era tanto vento. E poi, dopo un po' di tempo, è stato italianizzato, è diventato Pantelleria. Da Bint Ariyah, Pantelleria. Allora, facciamo di questo per un momento. C'era uno Sahaba qui in Italia. C'era Sahaba, i compagni del profeta sallallahu alaihi wa sallam, qui in Italia, in Sicilia. Questa cambia un po' come pensiamo di questo paese. Sì, c'erano Sahaba in Arabia, in Etiopia, in Yemen, eppure in Italia, soprano. Allora, al tempo di Osman Rodolfo, sono andati a Sicilia, ma non avevano conquistato l'isola. Hanno fatto qualche battaglia e poi sono ritornati. E dopo un po' di tempo, i musulmani sono tornati. Allora, voglio parlare un po' della storia di mia famiglia, perché mio padre è calabrese e viene da Calabria, è nato in Calabria. Il nome di sua città è Soriano, si chiama Soriano Calabro. E sempre avevo pensato, questo nome italiano, Soriano, non vuol dire niente. Ma dopo un po' di tempo, quando avevo studiato di più, avevo scoperto che questo nome viene dal paese Suria. Suria in arabo, in italiano Siria. Come mai? C'erano monaci in Siria e quando i musulmani conquistavano Siria avevano deciso di scappare, di andare all'Italia dove ci sono più cristiani. E sono andati a Roma, il Papa a quel tempo aveva dato tre città per quei monaci. Uno in Lazio si chiama Siria. Soriano del Giglio, uno in Calabria, si chiama Soriano Calabro, e uno in Sicilia, non so come si chiama. E poi sono andati a Soriano, hanno fondato questa città con il nome Surira, Suriano. E Sultano dovevano scappare dai musulmani. Però dopo 50 anni Sultano, i musulmani avevano conquistato questa città, Sultano. Perché i musulmani sono entrati in Sicilia. Anche Sicilia. Credo che tanto di noi sappiamo una cosa di Sicilia, che non è ovvio. Questo nome di Sicilia, il lago, diciamo, Sepedia. C'è un uomo con questo nome, Nisba, si chiama Gelbata Sepi, o Gelbata Sepi per gli egiziani. Lui è l'uno che ha fondato la città di El Cairo, di Cairo. Un musulmano, italiano, convertito, era l'uno che ha fondato la città di Cairo e l'università di Alfa. Soltanto un italiano. Guarda questa storia, un musulmano ha fondato il Cairo. Questa è una grande cosa, subhanallah. Allora vediamo che i musulmani avevano conquistato tutta Sicilia. E Palermo l'hanno cambiato il nome El Medina. Palermo era chiamato El Medina. E dopo un po' di tempo è diventato una delle città più grandi del mondo. A quel tempo, subhanallah, la città più grande del mondo era Córdoba. Córdoba è la città in Andalus, Spagna, quando era musulmana. La città più grande del mondo era Córdoba. La seconda era El Medina, Palermo. E soltanto era scritto che c'erano più di 300 moschee. C'erano più di 300 moschee in El Medina, in Palermo, subhanallah. Oggi c'è uno. Oggi c'è solo uno. Per il passato c'erano 300 moschee. Vediamo soltanto oggi, perché la maggior parte sono convertiti a essere chiese. Se vai alla cattedrale di Palermo, perché oggi è una chiesa, vedrai c'è scritto nella chiesa Ayat del Coran, subhanallah. Anche vicino alla casa di mio padre, in Calabria, c'è una chiesa famosa, si chiama la Cattolica di Stilo. E quando entri in questa chiesa, questa chiesa, la Cattolica di Stilo, vedrai scritto in arabo, chiaro, La ilaha illallah wahda. Fino ad oggi. Perché? Perché era una moschea. Subhanallah, vediamo anche nella storia di Sicilia, Calabria, Puglia, perché tutto il sud era governato dai musulmani. Si chiamava l'emirato di Sicilia. Vediamo soltanto nelle parole. Quale delle parole sono entrate anche nella lingua italiana? Per esempio, mischino. Quando vediamo un povero, specialmente in Sicilia, in Calabria, diciamo mischino. Mischino. Tutta la mia vita ho pensato questa è una parola italiana. Quando mi sono convertito all'Islam, avevo pensato che i musulmani dicono mischin, mischin. Ho detto, ma da dove è questa parola italiana? Ho detto, no, scusa, è arabo, non italiano. Poi si parla che no, gli italiani hanno preso questo nome del arabo. Oppure, vediamo, per esempio, i cognomi dei calabresi siciliani. Avevo un amico in Australia, lui siciliano, scuro, come l'arabo. Il suo cognome era Baballah. Da dove viene? Aibatullah. C'è un cognome famoso in Calabria, Morabito. Ci sono tanti esempi di questo. E purtroppo i calabresi siciliani non sanno questa storia. Non abbiamo mai parlato di questo. Perché abbiamo detto, no, non siamo italiani, non siamo arabi così, di quelli saraceni. Come dice mia nonna? Non dice mai musulmani, no, saraceni, turchi. Anche quando io sono convertito all'Islam, mi ha detto Robertino, ma perché sei diventato un turco? Subhanallah. Allora ho spiegato, ho provato di spiegare, no, non sono un turco, non sono un arabo, non sono pakistani, sono italiano, è musulmano. Anche nella nostra città c'è musulmano, perché non sanno questo, come hanno scordato questa storia. Ma c'è una grande storia, soprattutto ci sono edifici in Sicilia, per esempio l'Aziza, viene dell'Aziza. Quando lo vedi soltanto, diresti, questa è una moschea, questa è una moschea. C'è tanta storia, anche sul canale non sappiamo purtroppo che i musulmani non erano solo nel sud del paese. L'esercito dei musulmani sono entrati in Basilicata, sono andati a Napoli, sono andati più nord, fino a quando sono arrivati a Roma. Sì, i musulmani avevano attaccato Roma, si chiama. Sono entrati a Roma, sono andati alla chiesa di la Basilica di San Pietro, la Basilica di San Paolo, si chiama il Sacco, sì? Il Sacco di Roma. Quando i musulmani sono entrati, hanno preso tutto, i tesori, soldi, statue, tutto sul mano. Quanti di noi abbiamo preso? I musulmani sono andati a Roma, hanno attaccato Roma. E perché di questo il Papa? Ovviamente era arrabbiato con i musulmani. E 3 anni dopo questo sacco di Roma, c'era cioè la battaglia di Ostia, vicino a Roma. I prigionieri dei musulmani sono portati a Roma e il Papa aveva mandato che i musulmani dovevano costruire un muro. E questo muro, quando va il Vaticano, quando uno va a Roma, vedrà questo muro dove c'è il Vaticano, si chiama il muro, i muri leonini, the Leonine Walls, i muri leonini. I musulmani hanno costruito questo muro, soltanto. C'è anche questa storia che possiamo vedere in Roma soltanto. E come ho detto, questo cambia come pensiamo della storia dell'Italia. Islam era sempre qui in Italia. C'è una bella storia. Quando i musulmani erano in Sicilia, per esempio, il livello di istruzione, quelli che possono leggere, scrivere, era più alto. Era più alto ai tempi dei musulmani che adesso. Guarda come Sicilia è andata indietro. Sicilia è andata indietro. Dove parliamo oggi? È la città più ricca del mondo, secondo più grande del mondo. Dove è adesso? Dove è Sicilia adesso? Dove è Calabria adesso? Da prima era meglio. Il livello di istruzione era più alto quando c'erano i musulmani. Oggi è andato indietro. Sempre cristiani o quelli dell'Occidente dicono voi musulmani siete indietro, così, no, davvero loro sono quelli che sono indietro. Dove è Spagna? Dove è Sicilia, Calabria? Da prima era meglio che adesso, quando c'erano musulmani, c'era libertà di religione, c'era tutto sul campo. E questa è la storia di noi, non solo gli arabi, non solo i marocchini, di noi qui in Italia, questa è la nostra storia. E come vedete, questo cambia un po' come pensiamo di Italia. Questo è il nostro paese, vedete? Il sud è nostro, è un parte dell'Islam. Questa è una grande cosa. E allora, perché di questo, noi qui in Italia non dobbiamo pensare sempre come noi siamo immigranti, non siamo benvenuti qui, questo non è il nostro paese. No, noi siamo italiani qui, noi siamo musulmani qui in Italia. E come ho detto, noi dobbiamo fare dawa mentre siamo qui, dobbiamo lavorare per l'Islam. È una cosa facile, è una cosa facile. E se facciamo questo, se decidiamo di lavorare per l'Islam, questa è una cosa bene per la Roma, ma soprattutto per noi. Vediamo che Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Al-Asr: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Tutti sono perdenti. Cosa vuol dire un perdente? Che va in inferno. Un vincente va in paradiso. Tutti che vogliono andare in paradiso, cosa devono fare? Credono. E poi fanno del buono. E poi invitano alla verità. Invitano all'Islam. Dobbiamo fare questo. Non c'è certo. Se tu vuoi andare in paradiso, tu devi fare questo. E poi ti invitare alla pazienza. E guarda come parla di indicando la verità e poi la pazienza. Perché davvero qualche volta è difficile, qualche volta è difficile, però come ha detto uno dei chef dei nostri tempi, Rahim Allah ha detto, ma nella nasa quelli che non mi dì, fa se mi amici un mutava, guarete se io di capire, voglio avuto capire, voglio avuto capire, fa il caiere di sabidile, imamo di lavorare per Allah subhanahu wa ta'ala, di lavorare per l'Islam, vivremo grande. Inshallah abbiamo il paradiso se lavoriamo per l'Islam. Sì, qualche volta è difficile, però noi sappiamo quando noi adoriamo Allah, quando noi lavoriamo per l'Islam, per questa umma, come ci sentiamo? Una cosa che vi chiedo, tutti noi già sappiamo questo, quando tu adori Allah, come ti senti? Pensiamo di Ramadan, quando preghiamo Tarawih in Ramadan, come ti senti? Come senti il cuore? Davvero c'è felicità? Tutti noi già sappiamo questo sentimento, c'è felicità quando adoriamo Allah, quando torniamo a Dio. E quando facciamo un peccato, facciamo del male, come ci sentiamo? Già sappiamo, sentiamo male, il cuore sente male. Già sappiamo questo. E Allah subhanahu wa ta'ala ha spiegato questa cosa nel Coran quando ha detto è solo nel ricordo di Allah subhanahu wa ta'ala che i cuori hanno felicità. Subhanallah, quando noi adoriamo Dio, quando noi lavoriamo per l'Islam, c'è felicità. C'è solo felicità in questo. Ci sono quelli che lavorano per il mondo, per i soldi, per qualcos'altro. Subhanallah, guarda quelli che hanno del più. Guarda per esempio i famosi, i cantanti, i ricchi. Guarda subhanallah, loro sono quelli che fanno suicidio più di tutti gli altri. Perché? Perché non sono contento. Non sono contenti. Un amico mio era un gran cantante del rap in America. Era famoso, si chiamava lui è pazzo soltanto. Adesso si chiama Amir, è convertito all'Islam. Lui ci ha detto, da prima avevo tutto. Soldi, potere, donne, macchine, case, ogni notte una festa. Ma non ero mai contento. Davvero? Non ero mai contento. Adesso solo con l'Islam ha trovato la vera felicità, con l'adoranza di Allah, obbedienza di Allah subhanahu wa ta'ala. Guarda, ci sono tanti di quei cantanti di rap che sono diventati musulmani e subhanallah, sono più forti di tutti gli altri. Perché hanno già vissuto l'altra vita, la vita del mondo. E hanno deciso, no, vogliamo non solo di guadagnare questo mondo, vogliamo guadagnare un posto in paradiso, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala, minkum man yurid ad-dunya wa minkum man yurid al-akhirah. Ci sono quelli di voi che vogliono questo mondo e ci sono quelli di voi che vogliono il paradiso, che vogliono la vita prossima. Quando hanno arrivato questa aria, dopo la battaglia di Uhud, quando c'erano pochi musulmani che avevano visto la mina, i tesori della guerra, e avevano disobbedito il profeta di Allah sallallahu alaihi wa sallam per prendere queste cose, il mondo, il dunya, soldi, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala, zuyyina lin-nas hubbu shahawat. Allah ha detto, è stato dichiarato agli esseri umani l'amore dei desideri. Guarda cosa ha detto Allah, non ha detto l'amore dei soldi, l'amore delle donne, l'amore di questo, ha detto no, l'amore dei desideri. Perché per uno, quando vuole qualcosa, sempre sta pensando di questo, solo se avevo questo, solo se ho questo, quando ho questo sarai contento. E può pensare per questo per tutta la vita, perché Shaitan viene e dice, oh Muhammad, solo se avessi questa cosa saresti contento. E tu sì, voglio questo. Ma quando ce l'hai? Per esempio Allah comincia con An-Nisa, le donne, un uomo. Può pensare tutta la vita di una donna, oh solo se ero con lei. E poi quando c'ha questa donna, 5 minuti, finito. Sono 5 minuti, basta, finito. Non c'è più felicità. Noi pensiamo che saremo felici, saremo contenti per tutta la vita? No! Dopo questo non c'è niente. Perché di questo Allah subhanahu wa ta'ala, quelle cose sono il metaba. Il metaba si può dire sì, è divertente per un po' di tempo. Si può dire temporaneo. Temporaneo. Però Allah subhanahu wa ta'ala è il meglio dei ritorni. Cosa vuol dire? Se noi guadagniamo queste cose, tranquillidad e mai futuro. È solo nella tua coppia con Allah che i cuori sono contenti. E allora, se noi scegliamo di adorare Allah, se noi scegliamo di l'Akhira e non questa dunia, solo in questo ci sarà la felicità in questo mondo e poi nella prossima. Come ha detto il mio Signore, Rahimah Allah, ha detto, se uno non gusta il gusto del paradiso di questo mondo, non avrà il paradiso dell'Akhira, della vita prossima. Cosa vuol dire? Come ho detto, quando adoriamo Allah, c'è la dolcezza della fede, halal al-iman. C'è questo. Questa è la vera felicità in questo mondo e poi nel prossimo. O possiamo essere di quelli che provano di guadagnare il mondo e non siamo contenti in questa vita e siamo dei perdenti nella prossima. Guarda, cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Vogliamo decidere di scegliere questa vita, la dunia, tutto? O vogliamo essere di quelli che vogliono di scegliere il Akhira, il Jannah? Lo scelto è nostro. Lo scelto è nostro. E quando scegliamo la cosa che vuole Allah subhanahu wa ta'ala, c'è la vera felicità. Allora, per noi, per fare questo davvero non è difficile. Di cambiare la vita non è difficile. Voglio raccontarvi una storia che fa un esempio di come cambiare, diciamo, la vita per adorare, per adorare Allah e di lavorare per l'Islam. Una volta c'ero il padre di mio amico e lui era malato con cancro. E subhanallah, era malato, era in ospedale, sono andato a visitarlo e subhanallah, era un chef, mashallah, benissimo di nostra città, si chiamava Sarakudin. Sono andato a visitarlo e subhanallah, anche se era malato, subhanallah, aveva un iman forte. Un iman subhanallah, anche se siamo andati a visitarlo per parlare un po' di parlare della pazienza, ma lui stava parlando con noi, stava parlando di Dawah con noi, stava parlando del paradiso, del suo di vita, subhanallah. Era un uomo buonissimo, subhanallah. E poi, come era malato con cancro, una notte aveva un sogno. E in questo sogno, due angeli sono venuti dai cieli e hanno detto: yes, Rahudin, ti auguriamo, dopo 3 giorni Allah subhanahu wa ta'ala prenderà la tua anima e porterà il tuo Signore, il tuo Signore. Subhanallah, che sogno questo. La notte prossima, lo stesso sogno, due angeli sono venuti: yes, Rahudin, ti auguriamo, dopo due giorni ritornerai a tuo Signore. La notte prossima lo stesso sogno. Yes, Rahudin, ti auguriamo, domani ritornerai a Allah subhanahu wa ta'ala. Allora pensiamo, quando si è svegliato nella mattina, di che cosa penserebbe? Quando si è svegliato nella mattina, di che cosa penserebbe? I soldi, il lavoro, di una donna, della vita, della dunia. No, non penserebbe di questo. Ma chi penserebbe di questo? Dopo, sanno che Allah subhanahu wa ta'ala, gli angeli di Allah subhanahu wa ta'ala hanno detto, questo giorno ritorna a lei a Allah subhanahu wa ta'ala. Chi penserebbe del mondo? Che cosa è la differenza tra di noi e di lui? Che cosa è la differenza tra di noi e di lui? Davvero non c'è differenza. Sì, lui ha avuto questo sogno, ma noi non sappiamo quando verrà la morte, questa certezza della vita, non sappiamo mai. Forse stanotte, forse domattina, forse dopo 2 giorni, non sappiamo mai. Ricordo soltanto una volta stavo parlando con un fratello musulmano e lui qualche volta non pregava, qualche volta non mangiava del carne haram, e allora volevo fare un po' di dialogo con lui. Ma che sarai morto in questa posizione quando non stai pregando? E ha detto: Musa, io c'ho tempo, io non muoio subito, sono giovane, avevo 30 anni, 32 anni, io c'ho tempo, guarda, ha detto: Roberto, c'è una notizia male, tua cugina è morta. La mia cugina aveva 30 anni. 30 anni? Aveva già 2 settimane prima una bambina sul campo. 30 anni è morta? Ma che ricordo di questo? Chi siamo noi di pensare che la morte aspetterà per noi? La morte non aspetta per nessuno. Quando la morte soltanto dice che viene, verrà. E soltanto ritornando alla storia di questo chef Sabatini, quel giorno dopo il sogno che Allah prenderà sua anima, quel giorno Subhanallah stava con tutta la famiglia e ha detto al suo figlio: per favore aiutami per fare sajda, aiutami per fare prostrazione, voglio fare sujud a mio Signore, ma non poteva perché era malato. E poi ha alzato il dito così e ha detto: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, è morto. Guarda, Subhanallah, chi non vorrebbe questa morte? Chi non vorrebbe questo, Subhanallah? Quando sono andato a Genesa, al funerale, ho visto mio amico, suo figlio, e sto pensando: ma che cosa posso dire? Mi spiace, o non sapevo cosa dire. Però quando l'ho visto, Subhanallah, quando l'ho salutato, stava sorridendo con un sorriso più grande che avevo mai visto nella sua vita, e mi ha detto: mio padre è morto dicendo la mia immolò soltanto quanto che sono contento. Guarda, soltanto, e chi non sarebbe contento con questo? Chi non vorrebbe questo per noi stessi? Chi non vorrebbe ritornare a suo Signore così? O vogliamo che ritorniamo a Allah durante stiamo facendo peccati, che non crediamo, che non adoriamo Allah, che non facciamo niente per l'Islam? Lo scelto è nostro, cari fratelli. Vogliamo essere di quelli, i vincenti in questa vita, la prossima? O vogliamo essere dei prudenti? C'era un sahaba, quando il profeta sallallahu alaihi wa sallam aveva mandato 60 dei recitatori del Corano per andare nella città per fare da'wah, perché c'erano dei mushrikin, i politici, che avevano chiesto del profeta sallallahu alaihi wa sallam: vogliamo sapere dell'Islam. E poi il profeta sallallahu alaihi wa sallam aveva mandato 60 dei recitatori del Corano, però era una trappola, i miscredenti volevano ammazzare questi musulmani. E quando i musulmani sono venuti a un posto che si chiama Bergamo, i miscredenti avevano attaccato, e uno dei miscredenti aveva una lancia, e aveva lanciato questa lancia così forte che quando aveva colpito il musulmano, è andato così e poi è uscito dietro il suo corpo, e questo musulmano è caduto dal cavallo. Però prima di morire ha detto: fustu in casa, ha detto: sono stato vittorioso per il Signore del Rano, sono stato vittorioso. E questo miscredente sta pensando: ma perché dice questo? Perché dice che lui è vittorioso? Perché questo miscredente pensa che la vita è tutto. Lui pensa di vivere e la vittoria, e di morire è perdita. Perdita, grazie. Lui sta pensando questo. Sta dicendo: ma perché ha detto questo? Io non capisco perché ha detto questo. Poi un altro miscredente ha detto: guarda, quello che ha deciso è un musulmano. E per loro la cosa più grande è di morire per Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, questa è la vittoria. Non è questa la vittoria? Di scambiare questa vita per la prossima? Di scambiare un posto nel mondo per il paradiso? Chi di noi non vorrebbe questo? Chi di noi non vorrebbe questo? Un altro fratello, un amico mio, subhanallah, quando io sono andato al Hajj per la prima volta, questo era 6 anni fa, penso, tutti i miei amici aveva mai visto. Anche lui ha detto, inshallah, io vengo al Hajj quest'anno con voi. Però al Hajj avevo incontrato tutti i miei amici, però non avevo visto Ahmed. E stavo pensando, forse poverino, mischino, non aveva basta soldi per andare al Hajj. Però soprano, dopo il Hajj, quando siamo stati in Mecca, abbiamo ricevuto la notizia che è stato ucciso il suo padre. Io sto pensando, soprano, cosa è successo? Perché quell'anno gli etiopiani avevano invaso Somalia. E cosa ha fatto il fratello? Ha detto, allora io devo andare per aiutare i musulmani, per aiutare i miei fratelli. È andato lì e durante una battaglia è stato sparato nella pancia e poi stava morendo. E ha detto ai fratelli, per favore, c'è un degno nel debito di $500, per favore uno di voi pagare il prezzo per me. E poi c'è mia moglie, un'australiana convertita, uno di voi prendi cura di te. Poi ha detto, dite ai fratelli in Australia di fare come ho fatto, di fare esattamente come ho fatto. E poi soprano ha visto Gesù e ha detto, posso vedere il vostro in paradiso. E poi è morto. Ma chi non vorrebbe questo? Chi non vorrebbe morire per Allah e andare in paradiso? Però come ha detto il chef, prima che ho detto, al-hayatu fi sabilillah as'ab min al-mawti fi sabilillah. È facile, davvero una cosa facile, di andare a morire. Morire subito, un secondo, finito, la vita, finito, torni a Allah, inshallah. Però di vivere con l'Islam, vivere come un musulmano, di lavorare con la umma, questa in verità è una cosa più difficile. È facile di andare a un altro paese a morire, però di essere qui in Italia ogni giorno quando ci svegliamo di dire oggi diciamo voglio lavorare con i musulmani, oggi diciamo voglio guadagnare un posto nel paradiso. Abbiamo visto subhanallah il profeta di Allah sallallahu alaihi wa sallam ha detto, dopo i profeti il primo uomo che andrà nel paradiso sarà Umar radhiyallahu anhu. E c'è una ragione per questo. Vediamo soltanto un giorno quando il profeta sallallahu alaihi wa sallam stava parlando con i sahaba, con i suoi compagni, e ha chiesto, chi di voi oggi sta digiunando? Abu Bakr ha detto, io, ya Rasulullah. Chi di voi ha visitato un musulmano malato oggi? Ha detto, io, ya Rasulullah. Chi di voi ha pregato la salata al genese, la preghiera del funerale un musulmano oggi? Io, ya Rasulullah. Guarda, questa non era una coincidenza. Non era coincidenza che Allah aveva fatto tutte queste cose. Non perché lui aveva l'intenzione di lavorare con Allah subhanahu wa ta'ala, di lavorare per questa umma. Non andiamo in paradiso senza lavorare per questo. Come ho detto, quando ci scriviamo nella mattina, dobbiamo chiederci che cos'è il mio obiettivo. E se è sincerità, se c'è ikhlas quando diciamo io voglio dare la parola a Allah, io voglio dare la mia vita per Allah, di andare in paradiso per eternità, eternità in paradiso per Allah subhanahu wa ta'ala. E per quanti anni dobbiamo lavorare? Niente, davvero niente. Guarda a come Allah subhanahu wa ta'ala, come ha detto, quando parla della da'wa, di invitare la verità, di lavorare con Allah, parla della pazienza. Guarda come Allah subhanahu wa ta'ala ci insegna la pazienza. Per esempio, se un fratello dice, oh io la mia vita è difficile così, noi diciamo pazienza, sarà pazienza. Ma non è lo stesso di quello che Allah subhanahu wa ta'ala fa. Allah subhanahu wa ta'ala dice, io la terra mi parlerò calzina e presena. Ci sarà un giorno quando siamo innalzati a Allah e stiamo aspettando, solo aspettando il giudizio di Allah. Non ha iniziato, solo aspettando il giudizio di Allah. Allah dice questo giorno andrà come 50.000 anni. 50.000 anni! Subhanallah! Questa vita, così. 5.000 anni così, E poi dice, fosbir sobra jamila, pazienta. Pazienta dunque una bella pazienza. Guarda come Allah ti insegna la pazienza. Ci sarà un giorno 50.000 anni e ci saranno quelli che dicono Robert Jaun, Robert Jaun, dicono oh no, mandami un altro volo al mondo, mandami un altro volo al mondo, io pregherò, io mi giurerò, io farò tutte le cose che hanno fatto, per favore Allah, mandami solo un altro volo al mondo, ecco tutte le cose che hanno fatto nella vita. Ma non ci sarà questa possibilità, no, quel giorno, quel giorno sarà il giorno del giudizio. Non c'è più dei azioni, non c'è solo il giudizio di Allah. Allora, non possiamo avere un po' di pazienza. E se abbiamo questa pazienza, come detto, ci sarà felicità. Davvero ci sarà felicità. E lavoriamo per questa onda. Lavoriamo per noi stessi e guadagniamo inshallah un posto nel paradiso. Ma dobbiamo avere non solo l'intenzione, ma l'ikhlas, la sincerità. Finisco con una storia che, subhanallah, questa storia davvero mi fa paura. Questa storia davvero mi fa paura. C'erano due fratelli musulmani, due musulmani dell'Occidente. Avevano deciso di andare a Shishan, a Cecenia, per assistere, per aiutare i musulmani. Sono andati. Già, sono meglio della maggior parte di noi che non hanno questa intenzione di aiutare i musulmani. Sono andati. E non per quelli che sanno, non puoi entrare subito in Cecenia, non si deve aspettare un po' per aspettare i mujahidi e poi quando ti apro allora puoi andare. E allora dovete aspettare una dei città di Russia, forse la capitale, non ricordo. E allora ogni giorno erano in un appartamento, non c'è niente da fare, uno soltanto tutto il giorno leggendo libri, recitando il Corano, pregando a Allah, pregando a Allah, soltanto a Allah. Uscirebbe per guardare la città e quando era fuori aveva visto una ragazza russa, bionda, bella. Quanto bella questa ragazza. Dopo un giorno, due giorni, ha detto: almeno parlo un po' con lei, non voglio parlare, non niente di più. E ha parlato con questa ragazza, ogni giorno hanno parlato e dopo un po' di tempo allora innamorato. Già scordato perché è andato lì, adesso può pensare solo di questa ragazza. E dopo un po' di tempo sono entrati in una proiezione subhanallah. Però lui sta pensando: che cosa ho fatto? Ho fatto questo haram, allora devo fare la cosa giusta e sposarla. E ha detto: allora voglio inshallah che tu diventi una musulmana e possiamo sposare, vivere insieme, una famiglia, così una vita contenta. Lei ha detto: io non sarai mai un musulmano, no. Se tu vuoi sposarmi, tu devi essere un cristiano. Lui ha detto: no, astaghfirullah, non posso. Però dopo un po' di tempo, perché dell'amore, l'amore del mondo, l'amore dell'Isa, l'amore del Dunya, cosa ha fatto? Ha detto: basta, devo sposarla. È diventato un cristiano, è diventato un miscredente, un morta, ha perso. Perso il posto nel paradiso, ha perso tutto. Per che cosa? Guarda, come ho detto, lui ha dato più della maggior parte di noi, è andato lì, ma non c'è sincerità, non c'è ras. Per tutti di noi, quando diciamo io voglio un posto nel paradiso, io voglio andare in paradiso, io voglio essere con l'uomo con i profeti e siete lì, ma ci guarda! Allora dobbiamo lavorare per questo con sincerità. Chiedo a Allah subhanahu wa ta'ala che tutti noi possiamo essere quelli che lavorano per l'Islam. Tutti noi possiamo essere quelli che guadagnano la felicità in questo mondo e la vita prossima. E che possiamo essere di noi che siamo dei vincenti in questo mondo e nella vita prossima. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.